amici, verrà il giorno in cui tra noi e Dio instaureremo un rapporto di intimità vitale, vita a vita, cuore a cuore. Allora incomincerete a ringraziare Dio per tutti i dispiaceri, per tutte le sofferenze che avete incontrato nella vita e direte: Signore, ti ringrazio. Ah, ma prima di arrivare a quel punto lì, no, è anche abbastanza facile, perché non è che Dio sia così lontano da dover fare tanta strada per instaurare un legame intimo e vitale con Lui. Intimo, ma Dio benedetto è più vicino a me che non voi a me. Anzi, Dio mi è più vicino che non la pelle vicina alla mia carne. Anzi, filosofia e teologia, ragione e fede, natura e grazia insegnano che Dio è più vicino a me che non io stesso a me. Perché se io sono quello che sono, è Dio che così ha voluto e così vuole. Amici, chi è stato a inventarci? Chi è stato a inventare la legge della procreazione? Il passamano della vita operato per noi, sì che siamo venuti al mondo. Non l'hanno inventata quella legge i nostri genitori, per quanto bravi, provveduti, intelligenti, dite tutto quel che volete, una lunghissima litania di lodi ai nostri genitori, però hanno obbedito. Siamo nati tutti perché hanno obbedito quei due sposi e sono diventati nostri genitori. Hanno obbedito a una legge che è fissata nella natura e che nessun uomo ha inventato, nessuna donna ha inventato. Quale donna ha inventato il suo grembo? E quale uomo ha inventato i suoi organi genitali? Chi ha inventato il corpo dell'uomo, il corpo della donna? Chi ha inventato la duplicità del sesso? Chi ha voluto l'unione di questi due sessi? Perché la scintilla della vita apparisse, ci fosse una creatura nuova, una vita nuova, un'anima nuova. Questo raggio della divinità non può essere invenzione che di Dio. Hanno obbedito. A volte ci costa essere obbedienti, ma dovrebbe essere la cosa più logica e vitale, perché non saremmo venuti al mondo se quei due sposi non avessero accettato la volontà di Dio. Speriamo che abbiano obbedito volentieri, che non abbiano obbedito facendo troppi calcoli. Sì, sappiamo che certuni fanno anche di quell'atto di obbedienza basi una forzatura, sì, dai, su, ma no, Paolo VI ha detto, non si può mettere al mondo un individuo senza il senso della responsabilità, perché è Dio che ha inventato questo atto semplice quanto solenne nella sua origine da Dio. Sì, ho sentito anch'io certi sposi, genitori, chiedere perdono a Dio anche a distanza di anni, perché quel figlio l'abbiamo accettato malvolentieri, abbiamo obbedito malvolentieri. A distanza di decenni, ancora il rimorso pesava sul cuore. Abbiamo obbedito di mala voglia, sperando che il figlio non nascesse. Oh. Io quando prego per i miei genitori, spero sempre che l'abbiano fatto il passamano della mia vita, volentieri, volentieri, perché io sono un innamorato della vita. Non potevano farmi un regalo più grande di questo. Ma so che non sempre queste mie parole trovano un'eco deliziosa in chi mi ascolta. Siamo nati per un atto di obbedienza al Creatore. E a questo mondo ci stiamo obbedendo al Creatore e ci stiamo bene. Disobbedendo al Creatore la vita viene a pesarci. Come a due coniugi peserà anche a distanza di decenni il triste ricordo d'aver fatto il passamano di malavoglia, quasi per dispetto, sperando che la vita non apparisse. Non vi meravigliate se alzo la voce così, se fosse qui al posto mio il santo. Padre Leopoldo Mandis, il grande confessore di Padova, quando tuonava era proprio per alzare la voce contro coloro che profanano la provvidenza di Dio nel passamano della vita o attentano alla vita. Non voleva sentirlo neanche nominare l'aborto. Rapporto intimo e vitale come il nostro con Dio non si può sognare. Un rapporto più intimo e vitale nostro con Dio non si può trovare, perché il raggio della divinità, che è la nostra anima, forma la nostra persona. Chi è che forma la nostra persona? Dio. È Dio l'autore della nostra anima e è Dio che con l'anima informa il corpo. Corpo e anima, elementi costitutivi della persona umana, sono opera di Dio. Autore è Lui, resta autore del concepimento, della gestazione, del parto, della crescita, dello sviluppo fino alla vecchiaia e padrone anche dell'ultima ora, la solenne ora del trapasso. Chi più intimo di Dio, a me che vi parlo, a voi che mi udite? Non c'è nulla e nessuno. Anche l'intimità voluta dal passamano della vita era un'intimità voluta da Dio. Creatore della vita, padrone assoluto, ideatore della vita, amministratore della vita e domani giudice e speriamo premio di questa avventura stupenda che è la vita.